E siamo rientrati in diretta 451 Frammenti Sonori, seconda parte di questa puntata un po' travagliata, Arbeit macht frei, il lavoro rende schiavi, questa ovviamente è la nostra traduzione polemicamente rispetto a una scritta che molti conoscono, legata ovviamente, campeggiava all'ingresso del campo di concentramento e campo di sterminio di Auschwitz, ripresa poi da un gruppo storico a noi molto caro come gli Ari, in un disco del 73 estremamente combattivo e militante, Arbeit macht frei, che abbiamo voluto ovviamente declinare in italiano, il lavoro rende schiavi. È una trasmissione chiaramente legata anche a una vecchia trasmissione di un annetto e mezzo fa, che intitolata Lavoro non lavoro, questa dialettica piuttosto difficile legata appunto al lavoro e al concetto del non lavoro, che noi abbracciamo in pieno. E abbiamo estrinsecato la prima parte del percorso di questa puntata attraversando vari progetti musicali legati un po' alla dimensione alienante, ripetitiva, nell'ottica però ovviamente connessa all'ossessività, all'alienazione legata al lavoro ripetitivo, indotto e costretto. È chiaro che poi tutta una dinamica legata alla ciclicità, alla ridondanza e anche ai loop, ai flussi connessi ad esempio alle musiche minimaliste o a certe dinamiche legate alla techno, certamente sono anche e possono essere ovviamente anche liberatorie, ma connesse ovviamente alla dimensione liberazione individuale e collettiva, non legata ovviamente alla meccanicità e la ripetitività di meccanismi invece scuri, alienanti e praticamente distruttivi rispetto all'identità individuale e anche collettiva. Dunque è giusto anche ribadirlo, anche perché moltissime musiche che noi mandiamo in onda da parecchi anni in 451 si rifanno molto all'idea della ciclicità, al loop, all'ipnoticità anche legata a certe musiche, ma chiaramente lo vogliamo coniugare come idea musicale sonora al lavoro, a certe sonorità che possono ricollegarsi se ovviamente fotografate o immaginate dentro un contesto meccanico lavorativo. E abbiamo ovviamente anche analizzato tutto quello che è successo nella scorsa settimana tra le battaglie legate appunto ai diritti dei lavoratori, come quella di Anzola dell'Emilia, la COP, una delle centrali, anzi la centrale di potere in questa regione Emilia-Romagna, che spesso appunto quasi mai, anzi, viene toccata dai media e anche da tutti gli organi di informazione, per poi anche ovviamente ricordare la giornata del 14, lo sciopero generale europeo contro l'austerity, dunque nei confronti e contro le misure dei vari governi nazionali europei, anche ovviamente dell'addirittura e della direttrice che viene portata avanti dall'Unione Europea con gli organismi legati alla Banca Centrale e tutti ovviamente i meccanismi e le centrali di potere capitalistico europeo e occidentale. Abbiamo anche ovviamente toccato il tema strettamente connesso alla guerra che sta verificandosi, ma più che guerra, un'aggressione, uno sterminio che viene portata avanti da Israele nei confronti dei palestinesi. Insomma, in questi giorni ci sono stati parecchi e parecchi morti, moltissimi anche bambini, dunque una strage proprio nei centri abitati nei confronti dei civili. E abbiamo collegato questo discorso all'ultimo brano, che poi è stato ovviamente tranciato essendo partiti un po' in ritardo per problemi legati ai mezzi di trasporto personali, cioè i miei, la macchina si è spaccata. Questo succede oggi, è una giornata un po' strana per quanto mi riguarda, si vede che un po' di congiunzioni astrali negative volevano non farmi arrivare in radio, ce l'ho fatta ma con più di 10 minuti di ritardo, dunque tutto è stato fatto con parecchia velocità e affanno per arrivare a mandare in onda e esplicitare anche certe tematiche politiche, musicali. Ovviamente spesso si può anche cadere in fraintendimenti o con poche chiarezza nei confronti di certi argomenti, dunque cercherò in questa seconda parte, avendo più tempo, di elaborare meglio questi concetti. Bene, l'ultimo brano, che poi ha aperto anche la seconda parte poc'anzi della trasmissione 451 Frammenti Sonori, Arbai McFry, Il lavoro rende schiavi, lo voglio ribadire perché siamo contro il lavoro, ma chi ci ascolta lo sa per bene. Abbiamo appunto aperto e chiuso con questo splendido lavoro di Vatican Shadow. Già il nome del progetto fa capire bene che approccio politico ha uno dei personaggi legati a un altro progetto Noise, della scena rumorista newyorkese, cioè Prurient, un progetto assolutamente interessante ma anche innovativo, perché riuscire a rielaborare una techno connessa anche a un certo approccio rumorista in questa maniera assolutamente originale è sicuramente difficile, anche perché la techno ormai è stata rivisitata, rimescolata e spesso raffazzonata troppe volte. In questo caso invece con Vatican Shadow, sicuramente un progetto importante di Dominique Fernaud, appunto, anche interessante per come è costruito, nel senso che è costruito su delle basi connesse all'antimilitarismo. I dischi sono appunto fino ad ora già multiforme, parecchi in due anni di vita di questo progetto, si connettono a tutte le nefandezze e i segreti connessi alla CIA, alla guerra in Medio Oriente degli americani, da Afghanistan a Iraq, e appunto anche alla guerra israeliano-palestinese, dunque molto molto legata a questo contesto. Dunque il disco che abbiamo messo in onda e che abbiamo appena sentito è tratto da Atta's Apartment Slated for Demolition, uscito pochissimo tempo fa, nel 2012, un progetto sicuramente importante, e da qui ripartiamo dentro il discorso lavoro non lavoro, e soprattutto Arbai McFry, Il lavoro rende schiavi, con una chiara dimostrazione musicale, in questo caso connessa all'oscurità, all'alienazione, alla mancanza quasi di via d'uscita, attraverso un suono particolarissimo che è quello di Sanò, personaggio legato al metal drone, e che incontra a una formazione storica dell'ambient industrial e sperimentale come Narsweet Wound, un incontro assolutamente azzeccato in un disco uscito nel 2012, The Iron Soul of Nothing, splendido lavoro, dove appunto queste colorazioni scure, anche inquietanti, nate dall'incontro di Sanò e Narsweet Wound, elaborano bene anche appunto il meccanismo dell'alienazione che può portare, che porta il lavoro. Ecco, su questo chiaramente le dinamiche di lavoro non lavoro si intrecciano, le troveremo come forme liberatorie, creative, appunto importanti per una sorta di affrancamento dal lavoro, seppur appunto in un periodo di crisi il lavoro riprende questa forza dirompente che è stata comunque parte di un certo Novecento, e soltanto le avanguardie, i meccanismi e le personalità, i progetti collettivi più rivoluzionari hanno messo in discussione l'idea del lavoro come forma appunto di liberazione. No, il lavoro è schiavitù, e questo che anche molti movimenti attuali portano avanti, cercando appunto di rivendicare un reddito che possa liberare creatività, forza e espressività individuale e collettiva dentro appunto un contesto capitalistico che attraverso la crisi cerca di nuovo di riportare ideologicamente il lavoro come forma di realizzazione individuale, e facendo scatenare anche dei meccanismi psicologici di controllo sul tempo che in realtà non è liberato ma che potrebbe essere liberato attraverso la ricerca del lavoro, stare dentro il lavoro, tutte le contraddizioni legate a non essere abbastanza dentro le professionalità richieste o le performance richieste dentro un lavoro che è sempre meno offerto, e dunque quando ci si incontra dentro questo contesto si entra ancora più in un meccanismo di schiavitù, di asservimento. Dunque il meccanismo è mettere in contraddizione un sistema capitalistico che porta invece a questo tipo di schiavitù, e su questa linea noi ci muoveremo in forma chiaramente molto legata alla una sorta di liberazione, di emancipazione, di creatività espressiva che porta appunto contro questo meccanismo di assoggettamento. E Sanò e Narsuitund con Verano Soul of Nothing, attraverso una nostra chiaramente lettura, rappresentano un'altra forma dell'inquietudine, dell'alienazione connessa al lavoro attraverso questo drone sonoro molto scuro, molto inquietante, per poi però aprirci direttamente attraverso una sorta di mixaggio, attraverso un altro progetto, 3-4 had been eliminated, invece dentro questa dimensione di apertura, di solarità e di creatività che invece potrebbe rappresentare la dimensione dell'affrancamento dal lavoro, dunque del non lavoro che noi forse non vedremo mai, anche se ci attraversa spesso il non lavoro, ma non è un non lavoro voluto, perché la disoccupazione e la cassa integrazione purtroppo ti porta anche a una dimensione negativa dentro un contesto sociale attuale, ma potrebbe essere appunto l'affrancamento una delle forme di liberazione, chissà, forse in qualche secolo a venire, forse non lo vedremo, speriamo di poterlo vedere o di poter seminare alcune pillole ovviamente antagoniste al sistema che possono poi crearci anche noi nel presente qualche forma di liberazione. Intanto godiamoci Sanò e Narsuitund con Verano Soul of Nothing. focus, kept breathing regularly. Decolt came in formation straight. Waste minute new traumatic wave. Focus. Focus. Kept breathing regularly. To break that coat of yours. Kept breathing regularly. And e siamo rientrati in diretta, abbiamo mixato lo splendido flusso di Sano and Our Sweet Wound da The Iron Soul of Nothing 2012 con un'altra formazione, 3-4 Had Been Eliminated. 2010 il disco Oblivion, si è mischiato un elemento quasi di apertura, non direi giocoso o gioioso perché non lo è, però sicuramente quasi tra la psicadelia e una sorta di ritorno alla natura, l'apertura di questo sorta di simil roads dal brano che abbiamo mixato nel momento proprio del missaggio con Sano and Our Sweet Wound, e poi questo finale rumorista, inquietante, questa voce è quasi spezzata che si agita sopra le note e i rumori che piano piano stanno emergendo, creando poi un muro sonoro anche abbastanza scuro ed inquietante, quasi una sorta di passaggio, una sorta di elemento di scollegamento e collegamento fra lavoro e non lavoro, inquietudine, alienazione, con momenti invece di apertura, di libertà, però ancora dentro la macchina sociale, produttiva e produttivista. Adesso invece ci allontaniamo piano piano, quasi in maniera a scalare, quasi una sorta di fuoriuscita da un tubo, attraverso un progetto che invece è estremamente aperto, una solarità che però è sempre connessa a una certa idea del rumore, coniugata, devo dire, in maniera magistrale alla dimensione invece ambientale, da cui parte questo assoluto genio degli anni zero, Tim Hacker, che abbiamo già più volte nell'ultimo anno, quest'anno poi nel 2012, inserito in varie puntate di 451 frammenti sonori. Tim Hacker è un musicista elettronico di Montreal, canadese, che già da diversi anni, iniziando tutta la sua produzione musicale negli anni zero, ha portato avanti un'idea estremamente interessante di nuova ambient mischiata e comunque collegata al rumore, alle nuove sonorità del nuovo millennio. E in questa sera metteremo proprio l'ultimissimo disco, uscito da pochissimo nel 2012, insieme a un altro personaggio importantissimo della scena ambientale, con influssi anche per certi versi industriali, come Lone Trix Point Never, Daniel Lopatin, insieme a Tim Hacker. Infatti hanno realizzato questo splendido lavoro, Instrumental Tourist, che darà proprio l'apertura all'idea più creativa, gioiosa, liberatoria del non lavoro, questa immaginazione, una sorta di idea che vogliamo mettere in campo attraverso il suono, attraverso la musicalità di una ipotetica altra realtà, un'altra dimensione umana, dove appunto la forma creativa e liberatoria possa assolutamente emergere rispetto invece alla meccanizzazione, la standardizzazione e l'inserimento nei nuclei fondanti di una società produttivista e capitalista, dalla famiglia alla chiesa al lavoro, alla struttura sociale determinata, gerarchica e chiusa, legata appunto a professioni, a professionalità e a tecnicismi. Qua si esce, si apre completamente una sorta di nuovo mondo, di un nuovo universo, una sorta di nuova dimensione, e cerchiamola appunto di immaginarcela insieme, e apriamo questa apertura con Tim Hacker e Daniel Lopatin, ripeto ancora, Instrumental Tourist. Thank you. siamo rientrati in diretta dopo questo splendido lavoro di Tim Hacker e Daniel Lopatin, sicuramente un'apertura verso il futuro. Instrumental Tourist 2012 e da Tim Hacker e Daniel Lopatin, sempre dentro l'idea e la dimensione liberatoria, creativa, aperta che noi immaginiamo dentro il non lavoro, dunque la liberazione dal lavoro, un progetto che abbiamo inserito qualche settimana fa all'interno di 451, scoperti oltretutto da pochissimo tempo da parte nostra, formazione australiana, Tree of Million, formazione che ha fatto uscire soltanto due album fino ora, e effettivamente lascia un po' perplessi perché i due album sono entrambi splendidi. L'altra trasmissione che avevamo inserito, i Tree of Million, era appunto l'altro disco che abbiamo inserito, cioè Immediate del 2008, mentre stasera andremo a sentire Golden Calf, un disco psichedelico aperto. La formazione è una sorta di progetto, un trio di artisti che poi singolarmente stanno portando avanti progetti personali e altri progetti collettivi, però questa idea, questo Tree of Millions non è stato poi portato avanti come progetto musicale ed è un peccato. Ecco, Abel Cross, Adrian Clamps e Finn Ryan hanno dunque realizzato fino ad ora soltanto questi due album nello stesso anno, nel 2008, e noi andiamo a sentirci Golden Calf, un disco splendido. Questi jazzisti che si sono messi sicuramente in discussione attraverso delle sperimentazioni elettroniche, alcune volte, alcuni tratti anche psichedeliche, e anche trattamenti assolutamente originali, innovativi. Per certi versi ricordano anche formazione molto conosciuta come Venex, ma si differenziano per un aspetto forse più appunto psichedelico, che è perfetto nel contesto di questo percorso sonoro di stasera. Arbai McFry dunque in questo caso rende schiavi, ma questo brano rende veramente liberi, al di fuori ovviamente della struttura del lavoro. Tree of Millions, Free of Millions, ho fatto un mix tra italiano e inglese, va bene, a posto, si vede che sono già cotto. Free of Millions, Golden Calf 2008, buon ascolto. Thank you. Thank you. E siamo rientrati in diretta, splendido veramente questo brano di Tree of Millions, formazione assolutamente importante sulla scena del jazz elettronico, con queste venature psichedeliche, liberatorie, aperte, assolutamente solari, seppur di una solarità assolutamente non banale, non scontata, non stucchevole, una solarità veramente aperta alla dimensione della liberazione, del cambiamento, del continuo lavorio su se stessi, sul piano individuale, sulla crescita proprio umana, ovviamente in contrapposizione, questa è la mia citazione chiara a Carmelo Bene quando contestava l'idea del lavoro, del posto di lavoro, della distruzione dell'essenza umana, e lo metteva in contrapposizione proprio al lavorio umano, lavorio sull'uomo, su se stessi, sulla ricerca appunto di una crescita complessiva. E in questo senso Tree of Millions entrano pienamente in questo contesto di affrancamento dal lavoro e dall'idea appunto della costrizione, della costruzione di un'identità collegata solamente ed esclusivamente ai ritmi dettati dal lavoro, che non chiude la sua dimensione temporale e profonda nelle 8 ore, nelle 4 ore, nella dimensione ripetuta e strutturata delle ore di lavoro in senso stretto, ma occupa tutta la dimensione quotidiana dell'essere umano, nelle forme anche connesse alle relazioni con le altre persone, le relazioni sentimentali, amicali, di conoscenza, nella costruzione della propria ricerca, delle proprie tendenze, delle proprie attitudini. Tutto questo viene chiuso, e viene chiuso attraverso appunto una forma, una struttura sociale connessa al lavoro capitalistico, nella struttura dove viviamo, dove vive ormai quasi complessivamente l'intero globo nelle varie forme e nelle varie differenziazioni. Questo capitalismo che non è scollegato al potere comunque religioso, potere religioso che emerge chiaramente ad esempio nella dimensione quasi interfacciata, sovrapposta con il potere politico ed economico in un paese come, in uno stato come quello di Israele, si vede anche quello che produce la dimensione e il potere religioso nel contesto proprio medio orientale e anche occidentale chiaramente. E in questo senso il potere religioso connesso al potere che abbiamo fondamentalmente pressante e invasivo come quello della Chiesa Cattolica e nelle altre forme delle religioni monoteiste, e la religione cattolica che viene proprio affrontata in maniera assolutamente irriverente ma anche geniale, non scontata e non muro contro muro, ma attraverso una sorta di manipolazione, una ricerca sul piano sonoro di smontaggio, di decomposizione, riassestamento, anche connessa poi alla ricerca e alla sperimentazione delle identità sessuali e nella ricerca appunto e nella costruzione e nell'affermazione di identità e di sperimentazioni differenti. E parliamo con questo lungo prologo di quel personaggio assolutamente geniale di Tertelmitz. Lei riesce pienamente a costruire un piano di sperimentazione sonora ma anche concettuale e strutturale della propria musica attraverso anche un continuo scontro e decostruzione e quasi disvelamento della dimensione prevaricatrice e totalizzante della religione cattolica, connessa ovviamente a tutte le proibizioni, alle costruzioni connesse alla famiglia, alla filiazione, alla dimensione eteronormata. E lì Tertelmitz riesce veramente a costruire un vero percorso rivoluzionario all'interno della sua musica e delle sue progettualità sonore. E qui andiamo a pescare, come anche abbiamo fatto la scorsa puntata, la scorsa trasmissione di 451 frammenti sonori intitolata Anomalie Cosmiche, abbiamo chiuso con un brano splendido da questo concept album, ma forse va anche al di là dell'album, Distrugge l'album, creato qualche mese fa da Telmiz, intitolato Soulnessless. E abbiamo ascoltato un brano tratto dal secondo CD. In realtà non è una forma CD né una forma vinile, ma l'intero album è praticamente distribuito con dei canali abbastanza delimitati e limitati attraverso una chiavetta USB, perché oltre ai cosiddetti due CD che molti hanno poi costruito, c'è un vero flusso assolutamente devastante, incredibile, di 29 ore continuate di musica che non poteva essere contenuta in nessun supporto tecnologico, e dunque si è andato attraverso la chiavetta USB. E appunto, tranne le 29 ore che chissà mai riusciremo a mandarle in radio, sarebbe una cosa impossibile ovviamente, perché supera la stessa giornata di 24 ore, però andremo a pescare alcuni brani, alcuni frammenti di questi due CD che sono stati, diciamo, creati. E abbiamo inserito già un brano la scorsa puntata, in chiusura della puntata Anomalie Cosmiche, e stasera chiuderemo alla stessa maniera, con questo brano splendido, questa composizione geniale di Telmiz, che a un certo punto arriva proprio a decostruire, manipolare e contrastare, per certi versi dal punto di vista sonoro, la dimensione del potere della Chiesa, attraverso un lavoro geniale, assolutamente imprevedibile, su una fonte sonora che non vi sto neanche ad annunciare, così vi lascio la sorpresa quando la sentirete, del flusso musicale di Telmiz. E così chiudiamo ancora un altro passo, un'altra diramazione di questa tematica legata al lavoro e al non lavoro, intitolata stasera Arbei McFry, il lavoro rende schiavi. E sicuramente la andremo a riprendere nel corso della prossima stagione. Comunque ci sarà sicuramente un'altra diramazione per continuare a affrontare un tema che è nodale, centrale in questa società, che è giusto anche sviluppare attraverso percorsi sonori, secondo il nostro parere. 451 vi lascio dunque con Ter Telmiz da Soulnessless, e vi aspettiamo ovviamente per la prossima puntata di 451 frammenti sonori domenica prossima. Ovviamente, per riascoltare la puntata e avere notizie dei brani che abbiamo mandato in onda stasera, potete sempre andare sul nostro blog 451frammentisonori.noblogs.org. Buonanotte. Glory be to God on high.

signori cardinali, venerati fratelli nell'Episcopato e nel sacerdozio, cari amici, il nostro odierno incontro in cui la gioia e la curiosità di ammirare le vostre opere vuole essere una nuova tappa di quel percorso di amicizia e di dialogo che abbiamo intrapreso il 21 novembre del 2009 nella Cappella Sistina, un evento che porta ancora impresso nell'animo. La Chiesa e gli artisti trovano ad incontrarsi, a parlarsi, a sostenere la necessità del colloquio, che il ruolo deve diventare sempre più intenso e articolato, anche per offrire alla cultura, anzi alle culture del nostro tempo, un esempio adeguato di dialogo fecondo ed efficace, orientato a rendere questo nostro mondo più umano e più bello. Voi oggi mi presentate il frutto della vostra creatività, della vostra riflessione, del vostro talento, espressione dei vari ambiti artistici che qui rappresentate: pittura, scultura, architettura, oreficeria, fotografia, cinema, musica, letteratura e poesia. Prima di ammirare insieme a voi, permettetemi di fermarmi solo un momento sul successivo titolo di questa esposizione: Lo splendore della verità, la bellezza e la carità. Proprio nell'omelia della messa prediceva pontefice, commentando la bella espressione di San Paolo della lettera agli Efesini, veritatem facientes in caritatem, definivo il fare la verità nella carità come una formula fondamentale dell'esistenza cristiana, e aggiungevo: in Cristo coincidono verità e carità. Nella misura in cui ci avviciniamo a Cristo, anche nella nostra vita, verità e carità si fondono. La carità senza verità sarebbe cieca. La verità senza carità sarebbe come un cembalo che tintinna. E proprio dall'unione, vorrei dire dalla sinfonia, dalla perfetta armonia di verità e carità, che emana l'autentica bellezza, capace di suscitare ammirazione, meraviglia e gioia viva nel cuore degli uomini. Il mondo in cui viviamo ha bisogno che la verità risplenda e non sia offuscata dalla menzogna o dalla banalità. Ha bisogno che la carità infiami e non sia sopraffatta dall'orgoglio e dall'egoismo. Abbiamo bisogno che la bellezza della verità e della carità mai la bellezza lontano dalla verità e dalla carità, ma con la ricchezza della vostra genialità, che del vostro slancio creativo sia sempre con coraggio cercatore della verità e testimone della carità. Fate risplendere la verità nelle vostre opere e fate in modo che la loro bellezza susciti nello sguardo, nel cuore di chi ammira, il desiderio e il bisogno di rendere bella e vera l'esistenza, ogni esistenza, arricchendola di quel tesoro che non viene mai meno, che fa della vita un capolavoro e di ogni uomo uno straordinario artista. Santo artifice di ogni bellezza che è nel mondo, ogni essere vive la bellezza ultima e definitiva, quella che scalda la nostra mente e il nostro cuore, e che attendiamo di poter contemplare un giorno. Il vero cuore porta tutti voi a costituire e a leggere il mondo.